amicizia e direi anche un patto di ferro fortissimi con Jacopo Astorius. I due erano diventati molto amici e avevano la stessa visione della musica e hanno, tant'è che Pastorius è stato il coproduttore dell'album Night Passage e anche di Mr. Gunn, fatti dopo Heavy Weather. Mr. Gunn fu un mezzo disco che creò un po' di disappunto, anche perché dopo un disco del genere era difficile poter fare qualcosa di altrettanto bello. Ma insomma, Shorter si trovò sempre più marginalizzato. La musica ebbe, nonostante dei momenti notevoli, per esempio come nell'album Night Passage, progressivamente perse di freschezza, perse anche di motivazione, diciamo così. Per cui a un certo punto fu necessario, dopo alcuni album, dopo quasi 10-12 anni di esperienze, sciogliere il gruppo. Tra l'altro va detto anche che il gruppo ha lasciato un segno importante nella storia della musica, anche a livello di business, perché per esempio loro, che erano dei musicisti molto esigenti, cominciarono a porre delle condizioni, per esempio di hotel, di accoglienza, di trasporti, che nel mondo del jazz non c'erano. Loro venivano da una gavetta pesantissima in cui viaggiare, stare negli alberghi, mangiar male, essere trattati male sul palco, avere un suono cattivo nell'ambiente, eccetera, era la regola. E invece, a partire dalla metà degli anni 70 in poi, con i loro manager, lavorarono a una cosa che per chi organizza concerti è un po' un incubo, ma ha alzato moltissimo il livello professionale sia della musica presentata sul palco, sia soprattutto di come viene trattato il musicista fuori dal palco, portato in macchina in hotel, trattato decentemente, che mangia decentemente, che dorme in un posto degno di questo nome, eccetera, eccetera. Questo nel rock era abbastanza normale, nel jazz no. Questi musicisti, nonostante l'apparenza, venivano dal jazz, e quindi conquistarsi anche questa, come dire, questa dignità professionale, che alzava i costi e rendeva tutto più difficile l'organizzazione, però, come dire, aveva il vantaggio di aver portato, nel jazz, appunto, un comfort per i musicisti che prima non c'era. La grande tragedia di Weather Report, in realtà, non è solo la mancanza di ispirazione, ma la morte improvvisa di Jacopo Astorius, in realtà Jacopo poi lascia il gruppo, ma insomma, come sapete, più tardi muore anni dopo in una rissa, cioè viene malmenato da un buttafuori di un locale nel quale voleva entrare quando era ubriaco, e muore a soli 36 anni. Una perdita enorme per la musica. Ma l'abbandono di Jacopo Astorius e Weather Report è una delle cose che creano dei problemi al gruppo. Io vorrei finire quindi con un omaggio a Pastorius, perché è stato l'ultimo elemento di energia di questo gruppo eccezionale. Alla fine degli anni 70, i Weather Report pubblicano un album che si chiama Night Passage, nel 1980, che contiene una straordinaria composizione di Jacopo Astorius, che è la sua più bella. Setting Town era un esercizio, uno studio, non un esercizio, uno studio molto brillante. Three Views of a Secret è invece una composizione, un valzer jazzato, diciamo così, di straordinaria bellezza, che lui aveva già registrato con la sua big band, e che poi, secondo me, in questa versione con i Weather Report raggiunge il massimo, anche perché lui all'inizio, tra l'altro, suona questo tema dolcissimo con gli armonici di nuovo del basso, creando un timbro del tutto inedito, con Zawinul che sta, come sentirete, con una specie di tastiera in secondo piano a accompagnarlo, e poi Shorter che dà un calore particolare alla melodia. Il pezzo ha anche un andamento strutturale curioso, cioè due o tre temi che poi tornano indietro, raggiunge un culmine e poi pian piano riprende gli stessi episodi dell'inizio. È quasi come se fosse palindromo per certi versi. Quindi io vi faccio ascoltare questa bellissima versione di Three Views of a Secret. Thank you. Preparando, sì, molto bello. Preparando questa conferenza vi devo confessare che ho avuto una specie di sprofondamento nella nostalgia, perché questa è la musica che ascoltavo quando avevo 15 anni, e quindi ho detto vabbè, mi rivolgerò ad altri nostalgici che sono cresciuti su questa musica. Poi preparandola e parlando con le persone in giro, compresa una chiacchierata fatta prima mentre preparavamo, allestivamo la... con i nostri fantastici tecnici dell'auditorium, allestivamo la conferenza, è venuto fuori che anche, per esempio, il figlio di un mio amico che ha 15 anni ascolta i Weather Report, uno dei nostri tecnici che ha 18 anni più di me, abbiamo fatto rapidamente il calcolo, ascolta ed è cresciuto con i Weather Report, tanto è vero, gli ho detto, ma scusa, quanti anni hai? Perché non può essere, insomma. Evidentemente questa musica ha ancora moltissimo da dire, all'epoca era molto controversa e come tutte le cose che incidono profondamente sulla realtà ha provocato reazioni molto forti e molto contrastanti, perché piacessero o non piacessero hanno inciso profondamente sulla realtà. Oggi, riguardandole indietro, non mi sembra che suonino come qualcosa di nostalgico, ma hanno ancora un carattere molto molto fresco, evidentemente hanno ancora qualcosa da dire alle giovani generazioni. Quindi per concludere con una battuta direi che il bollettino meteorologico volge sempre a bel tempo. Grazie. Grazie.